La figura del serpente, immagine della vita. 9 marzo. Rimase qui tanto, ha pregato con me, quanto è serena adesso. Ora non ho più quell'orrido rettile. E adesso posso di nuovo dare di più. 10 marzo. È una monaca, ora si riconosce il velo, ma non il viso. Le chiesi. Dimmi una buona volta chi sei. Lei, una setata. Io, perché sei venuta da me come serpente. Lei, non ero ancora capace di mostrarmi diversamente. Io, perché eri in questa figura ripugnante. Lei, era il simbolo della mia vita. Io, eri una monaca. Lei, sì. Io, e perché non vai dalle tue consorelle a chiedere aiuto, lei, io andai da loro, ma quelle non vedevano niente. Io, ti ho conosciuta proprio davvero? Lei, tu hai odiato il mio peccato. Ed era sparita. Non capisco affatto chi possa essere. Il 1 marzo. In pieno giorno ecco padre WR esattamente come da vivo. Io, sta bene? Come sono contenta. Lui, la lunga sofferenza mi ha illuminato. Sono salvo. Ora so che le anime vengono e possono venire da te. Usa bene le tue forze. Chi dà tutto, riceverà assai. Questa apparizione mi rende felice per due ragioni. Primo, perché è buono. Secondo, perché non mi volle credere. Quando gli raccontai la storia della monaca. Nota. Confronta la prima apparizione. È la terza volta questa, che coloro, che noti vogliono credere, si mostrano a me dopo la loro morte. FS e KT sono anche venuti. La mia tranquillità non è causata da superbia. Ma lo trovo come un riposo, una sicurezza quando vengono da queste persone, che non hanno bisogno. Sono una conferma per me. Molte cose che scrivo, possono suonare come vanagloria. Io tralasciarci volentieri qualche cosa, ma allora la verità non sarebbe più completa. 17 marzo. La monaca mi ha già salutata al mio arrivo a Monaco, quindi niente ferie. Vidi anche altre tre ombre e un uomo anziano. 19 marzo. Lei rimase qui tutta la notte. Allora è proprio Maria R., una monaca francese di Pie. Morì 5 anni fa a Marsiglia. Io, perché non ti mostri nel tuo monastero? Lei. Ci sono stata molto, ma esse non mi vedono. Io, mi puoi spiegare, perché io ti vedo e quelle mezze sante là non ti vedono. Lei, il loro spirito è ancora prigioniero, mentre tu ti puoi liberare. Io, rendermi libera da che cosa? Lei, da te stessa. Io, perché sei venuta da me sotto la forma di un serpente. Lei, era l'immagine della mia vita. Giuramenti falsi, tutto menzogna e commedia. Io, eppure non sei dannata. Lei, prima di morire ho finalmente ricevuto i sacramenti in modo degno. Io, che cosa posso fare ancora per te? Lei, pregare con me e flagellarti. Allora sarò nella luce. 25 marzo. Ora lei viene tutte le notti, senza rispondere. Adesso diventa sempre più bella, proprio come era da viva, solo e ancora triste. 30 marzo. Io, devo scrivere di te a Pie. Lei, no, esse pregano per me. Io, qual è il tuo dolore maggiore? Lei, il desiderio che non si quieta. Io, poveretta, mi rincresce tanto, perché quando eri in vita, io sono stata così cattiva con te, ora voglio riparare con l'amore. Lei, tu mi hai compenetrata. Io, poiché sono stata tanto rigorosa con te, adesso siilo tu con me e dimmi ciò che in me non li pace. Lei, tu non hai ancora compreso la tua vocazione. Io, che vocazione? Lei, la misericordia. Io, ai, sì. Sono così debole ed egoista, sono una così povera creatura. Ma dimmi di più. Lei, inabissati e vedrai. Io, non capisco. Lei, potresti vedere a tuo piacere attraverso la nebbia. Io voglio solo ciò che Dio trova bene per me, e come posso sapere io se il tuo consiglio è giusto? Lei, vedi il tuo angelo? Io, no, e tu lo vedi? Lei, sì, è accanto a te. Che mi è di grande consolazione, ma io non lo vorrei proprio vedere per niente e non cose troppo soprannaturali. Vedo sempre più cose. Ada, io vidi tre donne e quattro figure di nebbia. Il digiuno mi rende più libera, ma si tratta di un povero digiuno, sono debole come sempre.